Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, quest'ultimo appuntamento del 2009 è in realtà la prova provata che il vostro non è semplicemente un ascolto ma qualcosa di molto più partecipato. Era il 12 novembre e qualche giorno prima si era letto del ritiro di Damiano Tommasi dal calcio, o meglio del suo progetto di tornare alla base, al paese, dopo tanto girovagare per l'Italia e per il mondo, e di tornare a giocare insieme ai due fratelli nella squadretta locale. Alcuni di voi sollecitarono una diretta partecipazione di Damiano Tommasi a questo programma e io fui ben lieto di accontentarvi. Io ti confesso subito che non so bene da che parte cominciare, perché sei una persona, più che un personaggio, almeno dal mio punto di vista, ma di una discreta complessità. Allora, parto magari da una scheda tecnica, per ricordare a quei pochi in ascolto che non ti conoscessero che Damiano Tommasi, nato il 17 maggio 74 a Negrar, quindi nel Veronese, ha avuto una lunga carriera calcistica che è partita dal Verona, è passata attraverso 10 anni di Roma e poi si è sviluppata attraverso esperienze finali, diciamo, in Spagna con il Levante, in Inghilterra molto brevemente con il Queen's Park Rangers e poi in Cina nell'ultimo periodo. Forse io parto da quello che tu hai scritto sul tuo sito lo scorso 30 ottobre, sotto il titolo "Cambio lavoro, mi tengo il giocattolo". E hai scritto: 6 febbraio 94, stadio Appiani di Padova, Padova-Verona-Hellas, prima partita. 31 ottobre 2009, Teda Stadium, Tangu, e poi un sacco di nomi cinesi che non so nemmeno leggere, chiusa la parentesi, e commenti così: un ossimoro calcistico vedere il tramonto ad Oriente, ma è arrivato il momento di chiudere il sipario. Domani, 31 ottobre, si concluderà la mia lunga avventura professionale. E poi, e adesso mi piacerebbe che cominciassi a parlare tu, dopo tre racconti di tre episodi chiave e simbolici della tua lunga carriera, dici: tornerò a giocare e a divertirmi con un pallone che per anni è stato il mio attrezzo di lavoro. Raccontaci come, dove e perché. Innanzitutto mi presento, perché io anche a base della mia scelta, insomma, questa di chiudere la mia carriera professionale in Cina, c'è la mia famiglia attuale, sì, e la mia precedente, nel senso che io sono molto legato alle mie due famiglie e in questo momento sono a Verona e ho deciso di tornare più vicino alla mia famiglia d'origine e di dedicarmi un po' di più alla mia famiglia, che comprende 4 bambini oltre a mia moglie. E loro sono quelli che hanno mosso le mie scelte degli ultimi mesi, insomma. Ho sacrificato parecchio di loro negli ultimi anni perché sono stato all'estero e questa scelta di chiudere la mia carriera professionale, che vuol dire mettermi fermo e non dover più girare il mondo per lavoro, o comunque farlo programmandosi e non dipendendo da altri, certo, da altri impegni, è proprio perché voglio dedicarmi un po' di più a loro, voglio restituire un po' del mio tempo a chi glielo ho tolto, insomma, in primis alla mia famiglia che ho con mia moglie, e poi tornando a giocare con i miei fratelli e con i miei amici con i quali giocavo da ragazzino. È un po' tornare a restituire un po' del tempo che ho preso per me in questi ultimi anni. Certo, che da un certo punto di vista li hai tolto. Senti, hai già cominciato con questi falchi del Sant'Anna di Alfaedo, seconda categoria? Sì, sì. Ad allenarmi, sì. Sì. Ufficialmente non posso giocare perché devo aspettare 30 giorni dalla chiusura del contratto in Cina, quindi sì, nel frattempo ti alleni. Mi alleno con loro faccio qualche partita con la squadra amatoriale che c'è, degli amatori. Sì, che è in un ritorno all'origine, no? Ripatriata vera. Esatto. È tornare, come ho detto prima, da dove sono partito e devo, insomma, devo anche a loro se sono arrivato dove sono arrivato dal punto di vista calcistico professionale. Insomma, io sono cresciuto imparando da chi mi stava attorno, non solo, penso che per riuscire nella propria professione bisogna anche riuscire un po' nella propria vita, e per riuscire nella propria vita avere un supporto anche della comunità in cui si cresce, per me almeno è stato molto importante. Sono un paesino di montagna dove la comunità ha ancora un valore preciso importante nella crescita, certo, umana della persona. Senti, dato che tu sei uno, e poi ne parleremo con più calma, ma era giusto per introdurre l'argomento, dato che tu sei uno che si è sempre impegnato molto nel calcio e al di fuori dal calcio, e mi pare di aver letto, di aver capito anche per il tuo percorso, che avresti intenzione di continuare a dare una mano al calcio anche impegnandoti, se fosse possibile o necessario, in profondità. Quanto tempo pensi di restare poi seriamente lì in montagna con le tue due famiglie? Ma penso di restarci molto, però si può fare molto per il calcio anche da qui. Sì. Nel senso che quello che dicevo anche insomma, nello scritto di chiusura della mia carriera professionale, proprio perché la mia esperienza mi porta a dire che ci sarebbe ancora da migliorare. La mia esperienza all'estero soprattutto mi ha fatto vedere un altro modo di vedere il mio sport, sì, il calcio, di vedere questo grande movimento che in Italia ha delle strutture, e magari dall'interno, facendo fruttare l'esperienza anche di relazioni, di contatti stabiliti in questi 15 anni che ho giocato a calcio, cercare di promuovere, di limare quelle imperfezioni e quelle storture che spesso fanno guardare al calcio in maniera negativa, insomma, non sicuramente allontanano parecchi tifosi che vorrebbero avvicinarsi e creano disagio in chi lo pratica questo sport, in chi è addetto ai lavori. Certo. E quindi cercare di dare il mio contributo, però insomma, facciamo è anche un senso di responsabilità che sento, nel senso di portare la mia esperienza. Poi ci sono persone che hanno molta più esperienza di me, ma ci sono anche tanti altri che non hanno avuto la fortuna che ho avuto io di vivere dal di dentro un certo ambiente, quindi magari è giusto condividerla. Mi piacerebbe che tu ci raccontassi delle tre esperienze straniere che hai fatto, cioè l'ultima in Cina, quella molto più breve in Inghilterra e quella discretamente lunga a Levante, che cosa ti hanno dato, cioè che cosa hai ricavato da questi tre movimenti così lontani, soprattutto uno dal nostro. Innanzitutto in Spagna ho vissuto il calcio di pari livello di quello italiano, insomma, sia come aspettative che come qualità, come seguito, come riconoscimento anche a livello europeo. Insomma, il calcio spagnolo è sul livello di quello italiano come sul livello di quello inglese, e lì ho capito che si può fare calcio ad alto livello vivendolo umanamente, insomma, famiglie che venivano allo stadio, il contatto con i tifosi assolutamente normale, insomma, e la cosa strana è che sembra così normale che non si capisce perché non si possa mettere in pratica anche in Italia. È una cosa stranissima, però, e questo mi ha fatto capire, insomma, tornando al discorso iniziale, che tante cose si possono fare in maniera diversa. Certo. È stata un'esperienza, la mia prima esperienza all'estero, mi ha fatto rammaricare di quante occasioni perse ho avuto nei miei anni di Roma, e non solo nel confronto con gli stranieri, no, probabilmente no. Non avendo fatto questa esperienza ho capito poco anche le esigenze dei miei compagni stranieri che hanno nell'adattamento a un paese straniero con cui convivevi, certo, certo. E poi ho avuto la fortuna di riuscire a portare anche tutta la famiglia a Valencia, siamo stati un anno, è stata un'esperienza molto formativa, al di là insomma dell'apprendere una lingua nuova, un modo di diverso. Poi la qualità di vita spagnola, anche per uno che fa il mio lavoro, è sicuramente molto, molto attraente. A tempo di sport. Torniamo subito in compagnia di Damiano Tommasi e del suo racconto di una carriera di calcistica e di molto di più che ci sta intorno. L'esperienza inglese. L'esperienza inglese, ti interrompo solo un istante, ha costretto il tuo e mio, insomma il nostro comune amico Gianni Mura, lo scrisse un giorno su Repubblica e certamente gli sarà arrivato alle orecchie, ha costretto Mura, per fortuna per sole 7 partite, perché ne hai giocate così poche, quindi pare a tifare per Briatore. Questa non te la perdonerà mai, eh? Lo sai, eh. No, io non conoscevo Briatore, ho avuto modo di conoscerlo sì, insomma, parlando della mia esperienza inglese, al di là insomma del fatto di aver conosciuto Briatore, certo, un personaggio dello sport più della Formula 1 per il momento, ma sicuramente conosciuto, mi ha fatto conoscere un altro modo di fare calcio. Il livello non era la Serie A, la Premier League inglese, quindi, però la serietà nel lavoro, la possibilità di lavorare bene l'ho vissuta e ho potuto conoscere poi un paese insomma con una grande tradizione calcistica, con problemi di tifoserie superati apparentemente, insomma, comunque sicuramente sì, non sotto controllo, perlomeno sotto controllo rispetto a noi. Campionato che, pur essendo la seconda divisione, ha vinto parecchi nazionali di nazionali straniere, quindi il livello è sicuramente molto buono. Purtroppo è durata 4 mesi, purtroppo non sono riuscito a spostarmi con tutta la famiglia, era una situazione leggermente forzata, nel senso che venivo da un infortunio, quindi con i miei 34 anni arrivare da un infortunio recente come era quello di gennaio 2008 e avendo trascorso degli incidenti ancora più grave di qualche anno fa, sicuramente certo, ho dovuto mettermi alla prova, e poi insomma la programmazione della società, il fatto che la mia famiglia avevamo difficoltà a muoverla tutta per pochi mesi, niente, mi ha fatto scegliere di lasciare libero il mio posto per altri giocatori che interessavano molto di più la squadra e sicuramente in una programmazione di medio e lungo periodo era anche più intelligente fare insomma questo cambio e sono tornato, mi è servito, come ho detto, per conoscere un paese, per imparare un po' di più una lingua e niente, insomma io continuo a tifare Queen's Park Rangers in Inghilterra, visto che ho anche alcuni amici di che c'è. Hai alcuni amici, hai indossato la maglia. Senti, non avrei mica imparato anche il cinese, questo. Ma il cinese di sopravvivenza, ma di sopravvivenza. Lo stretto necessario, i numeri, buongiorno, buonasera e qualche piatto. E il linguaggio dei tassisti, dritto, destro, sinistro, tanto per ritornare a casa. E il calcio cinese che hai vissuto tu, che sensazioni ti ha lasciato? Innanzitutto l'esperienza più bella, più intensa che ho vissuto dei miei anni di professionismo, ma dei miei anni non solo di professionismo calcistico, perché l'impatto soprattutto culturale e dello stile di vita è sicuramente un impatto che fa pensare, che mi ha fatto pensare, mi ha fatto riflettere molto e se pensiamo insomma che la Cina sta discutendo adesso con gli Stati Uniti insomma su chi dei due ha più peso nella geopolitica mondiale, insomma conoscerla serve sicuramente. Andando in Cina ho detto vado a fare un tuffo nel futuro e probabilmente è già presente perché i numeri parlano così, in un mondo che gira intorno ai numeri la Cina sicuramente ha i numeri migliori, c'è dubbio. Il calcio professionistico è uno dei tanti sport, io sono arrivato a ridosso delle Olimpiadi dove la Cina, pur vincendo molto, tantissime medaglie nel calcio, non ha brillato, anzi addirittura le qualificazioni mondiali non ha superato il primo turno. Ai mondiali ci saranno squadre come Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, dirette concorrenti dal punto di vista dell'orgoglio asiatico e questo fatto sta spingendo il governo a voler crescere, però non è un interruttore che si accende con un tocco. Il calcio ha bisogno di tradizione, è quella che manca, ha bisogno di scuola ed è quella che manca, sicuramente hanno qualità che altri paesi in questo momento non hanno, hanno la forza economica, hanno la voglia, hanno l'ambizione di diventare importanti anche in questo sport, visto che le medagliere di altri sport ormai sono primeggiano e quindi il calcio sta vivendo questo passaggio, il problema è capire come si deve crescere. E la cosa che più secondo me sarà complicata sarà inserire uno sport o un concetto di sport di squadra di un certo tipo in una tradizione, in un modo di interpretare lo sport che è un po' diverso dal nostro. Damiano, mi piacerebbe, dato che, ripeto, mi sto destreggiando a fatica tra tutti i messaggi e le richieste di domande che arrivano, beh, ce n'è una attualissima. Scrive Francesco Villabruna e dice: tra i pregi di Tommasi c'è anche la sua sensibilità. Mi piacerebbe un suo pensiero, visto che conosce bene questo mondo e ha gli strumenti per darci una serie di chiavi di lettura, un suo pensiero sul dramma che ha colpito Henke, e cioè: il male oscuro, quindi la depressione, davvero colpisce così profondamente anche il mondo dello sport? Sì, anzi. Qui non si tratta di sport, probabilmente adesso io non ho letto nei dettagli la vicenda di Henke, ma credo che il vivere quello che mi sono sempre trovato e sempre ci si trova in difficoltà è convivere con un personaggio rimanendo una persona. Hai detto niente. Nel mio scritto che prima si citava, dove si citava tre aneddoti della mia carriera, non sono tre aneddoti a caso, sono i tre elementi che servono per fare un calciatore professionista. L'esordio. Il primo, l'inizio, avere la fortuna, avere l'opportunità, avere l'occasione di far sfruttare le proprie doti e avere la fortuna di cogliere quelle opportunità, perché il treno passa, tanti ci salgono al momento giusto, altri no. La seconda, che riguardava un episodio vissuto con Zeman, è la fiducia di chi lavora con te, soprattutto nei momenti difficili, in cui la tua persona è individuata nel personaggio, subisce critiche, subisce anche grosse amarezze difficili da sopportare, se non si ha quello che è il terzo aneddoto, se non si ha alle spalle o sotto i piedi una famiglia o comunque un contorno che ti considera comunque al di là del lavoro che fai, al di là del personaggio che sei, che ti valorizza come persona, che ti dà e ti chiede come persona, che certo. In questo caso è stata mia moglie e tutta la famiglia che poi è venuta insieme a lei. Quindi. E infatti hai scritto splendidamente, prima di dormire, proprio quando recuperavi da quell'infortunio gravissimo di quell'inglese pazzo, dopo quell'amichevole in montagna, prima di dormire continua ossessiva la serie di esercizi per piegare, distendere, rinforzare, elasticizzare questo ginocchio, mi vengono i dubbi, è la prima volta, le speranze di tornare in campo si riducono giorno dopo giorno, che dici, tornerò come prima? E la risposta di tua moglie: a me vai già bene così. Credo che questo sia indubbiamente un segreto fondamentale. Damiano, a questo punto ritorno a un'intervista che tu rilasciasti a Gianni Mura nel gennaio del 2001, mi sono documentato sto affogando tra i ritagli, quando Gianni ti chiede: scusi, ma lei non rischia in questo ambiente di diventare un grillo saggio, un santino? Trova mai nessuno che le dica: con queste storie ai valori hai rotto un po' le scatole? E la tua risposta fu: ne trovo tutti i giorni. È cambiato qualcosa da allora? Ma è cambiato che essendo all'estero c'è gente che mi dice Intanto vorrei sottolineare che forse quella dell'intervista è una delle più belle che sono riuscite, nel senso che sì, certo. Quando si fanno le interviste è spesso difficile far capire a chi ascolta quello che si vuole dire, insomma quell'intervista c'ero riuscito di più Gianni a capire quello che stavo dicendo. Certo, 19 gennaio 2001, perché ormai manovrando su internet tu sai che si ripesca tutto, no? E quindi lo dico a beneficio degli ascoltatori, Repubblica. Ma il discorso di prima di parlare troppo e troppo spesso e dire cose che tante volte non si vogliono sentire, quello, il rischio c'è sempre, c'è sempre stato, esporsi poi presenta anche questo lato negativo però. Ma per esempio quando tu, dopo quell'incidente gravissimo di cui parlavamo prima, di questo maniscalco, senza voler mancare di rispetto ai maniscalchi, anzi, che ti entrò da dietro in un amichevole e ti tritò un ginocchio, quando tu dopo un anno di dolori, di sacrifici, di recupero e rientrasti e dicesti: io mi accontento del minimo sindacale, cioè della paga di 1.500 euro, detto tra noi, a distanza di anni ormai, furono più come dire, le persone che capirono lo spirito del tuo gesto, o quelli che lo presero per demagogia? Ma credo che in pochi l'hanno capito. Ecco, eccola. Per me è stato forse il più redditizio investimento dal punto di vista economico che ho fatto, al di là della soddisfazione di ritornare a giocare ad alti livelli. Io volevo tornare a giocare, a fare il mio lavoro, e capivo i dubbi di chi si vede arrivare un giocatore che è 15 mesi che sta fermo con un infortunio gravissimo, siccome la parte economica non c'entrava niente su quel contratto, nel senso che non doveva, a me quello che interessava era avere un contratto da calciatore professionista. Certo. L'aspetto economico non mi interessava, ma io non ho mai commentato o discusso contratti né in un senso né nell'altro, né troppo alti né troppo bassi. Sono accordi che si prendono in due tra la società e il calciatore. Il mio gesto non è stato un gesto di voler dettare la strada o essere da esempio o dare un segnale. Il mio era semplicemente quella, la voglia di tornare a fare il mio lavoro e provare a farlo dove avevo smesso. Insomma, è stato un tacito, insomma, un accordo preso tra me e il mio procuratore. Certo. Lui avrebbe deciso dove, io avrei deciso le condizioni, e tra le condizioni c'era anche la scadenza di un anno, perché appunto non ero convinto di come era stata vissuto il mio infortunio a Roma, e niente, è stato poi anche quello che mi ha portato alla decisione di andare all'estero alla fine del campionato. A tempo di sport. Non so se basta la parola grazie, scrive Daniela da Torino, per questa trasmissione con Damiano Tommasi, ma forse questa semplice parolina basta per far capire la riconoscenza e la gratitudine per qualcosa che sembra semplice ma non lo è, che sembra banale ma non lo è, che sembra d'antan ma non lo è, e cioè la correttezza, l'etica, l'educazione, insomma l'umanità, che pare perdersi in parole vuote di significato e volgarità sparsa a palate su tutti e su tutto. Grazie a lei, ma soprattutto grazie, e io sottoscrivo questo, al signor Damiano Tommasi. Torno indietro di nuovo, stavolta a settembre 99. È un'intervista di Nuova Repubblica in cui tu dichiari, non so, 99, stiamo parlando di 10 anni fa suonati, perché era settembre, non so se la politica si sia inserita all'interno della curva. Purtroppo oggi fa più notizia una svastica che uno striscione di solidarietà. La nuova generazione non è delle più brillanti per valori e coerenza. La violenza negli stadi è una conseguenza di un disagio che si sente non solo nel calcio ma anche fuori. Tanti giovani che si ritrovano insieme non fanno che aumentare questo disagio. Dieci anni dopo si leggono come parole, come dire, anche profetiche. Certo, siamo regrediti ulteriormente, direi. Purtroppo è poco peso che si dà a questo aspetto. A me, una delle cose che secondo me è una struttura che passa inosservata anche dal vostro punto di vista, parlo di classe di giornalisti, è l'automatismo, risultati negativi, contestazioni, rischi di scontri all'allenamento, ritiri punitivi. Per me è una delle strutture più gravi, perché significa non pensare a chi sia di fronte. Insomma, si pensa che i calciatori siano come un'automobile, più benzina ci metti più deve andare. Non è poi così, insomma, non è che perché uno guadagna più soldi di un altro deve correre di più e deve essere più bravo. Purtroppo spesso e volentieri si unisce lo stipendio e si giustificano tante storture che sono anche minacce, insomma, soprattutto nei campionati minori. Insomma, ci sono allenatori di squadre di Serie C che lasciano la squadra per non subire ancora contestazioni, per non mettere a repentaglio l'incolumità fisica della propria famiglia. Certo. Sono cose che solo a parlarne dovrebbero far venire i brividi. Accapponare la pelle, hai ragione. E invece si legge e si sente sconfitta, e quindi probabile contestazione alla ripresa il martedì, probabile ritiro punitivo. Probabile, mi sembra che sia dare per scontato che è una, una conseguenza, accettata o meno, però insomma, comunque ci si convive, invece non ci si dovrebbe convivere, perché poi succede che siano fatti gravi, certo, perché poi parte l'escalation, ma si capisce. E quindi, ma quella è la base di partenza, pare tuo, cioè la mancanza di cultura sportiva e di cultura della sconfitta. Sì, io da sempre insomma cerco, quando ero a Roma lo facevo molto di più, adesso un po' di meno, mi chiamavano per parlare ai ragazzi, giù. Credo che umanizzare il nostro ambiente, insomma, dare un volto e un pensiero all'arbitro, dare un volto e un pensiero al calciatore, dare un volto e un pensiero al tifoso, sia già rapportarsi con un'altra persona, insomma, sembrano banalità, ma quello che dicevo parlando degli stranieri in Italia, insomma, il fatto di adattarsi a una cultura diversa, essere a 10.000 chilometri dalla propria famiglia, avere i propri affetti, quello che poi porta a gesti come quello di Henke, che sono incomprensibili, ma sono incomprensibili per chi guarda il calcio vedendo figurine che si muovono nel campo, invece sono purtroppo comprensibili per chi sa che sono persone che si muovono in mezzo al campo, sono persone che hanno pressioni diverse, e spesso e volentieri si creano amicizie ed opportunità e quindi non si hanno neanche dei punti di riferimento validi e solidi, insomma, tanti sono i matrimoni che si fanno o i fidanzati, le fidanzate che si trovano perché si è calciatori, però quando non si è calciatori si è una persona, un ragazzo di 25 anni e magari si scopre che le amicizie o gli amori erano legati al personaggio, quindi si perde spesso la propria identità. Sono aspetti negativi, retroscena di uno spettacolo che va avanti e che vive giustamente sulla passione di tanta gente, ma che non vengono presi in considerazione e magari ogni tanto regalano qualche brutta sorpresa. Non è finita la conversazione, credo durerà ancora per qualche minuto dopo. Adesso siamo alla vigilia di siamo nell'imminenza di un altro intervallo. Per ragioni di tempo oggi saltiamo, lo faremo magari un'altra volta, il capitolo di Tommasi, che mentre tutta Roma festeggia uno scudetto che anche lui festeggia per primo, lo scudetto romanista del 2001, parte e se ne va in Bosnia a portare tutto quello che ha raccolto durante quell'anno attraverso multe di sue, di compagni, insomma, di quello che era e contribuisce ad alleviare quel momento drammatico che si stava vivendo nei Balcani. Ripeto, sorvolo su questo per non esagerare. Leggo un altro messaggio tra un altro centinaio arrivati nel frattempo. Luigi scrive: sto rimandando un appuntamento importante per non smettere di ascoltare Tommasi. Mi resterebbero un paio di domande. La prima nasce da un ulteriore dettaglio, abbi pazienza, che anche questo è del 2001. È bello, raccontavi a un certo punto, era subito dopo lo scudetto romanista. Quando conosci qualcuno ti fa tre domande: come ti chiami, quanti anni hai e se sei tifoso della Roma. È bello, ma è anche un limite. So che il buonismo dà fastidio e che per questa ragione più di un calciatore non mi vede bene. In Italia vanno di moda quelli che rubano un rigore o che vincono per una punizione che non c'è. Io non posso piacere in un paese abituato a fare leggi e a studiare poi il modo per aggirarle. Damiano, era il 2001, nel 2009 siamo messi ancora peggio, eh? O no? Beh, se parliamo di leggi sicuro, se parliamo di rigori, forse in campo qualcosina è migliorato, forse. Ma mi sembra... Sì. Non te. Sì? No? Siamo meno antipatici, mi sembra. Qualcosina, eh? Il problema mio è che potrebbe farmi anche star zitto un po' di più è che spesso le mie parole venivano quando ero a Roma, quando andavo spesso in sala stampa perché ero vice capitano, perché era l'anno che andavamo bene, insomma, non a caso sono quegli anni lì, i ritagli che avete trovato. Sì, certo. Quando uno si sovraespone, come si dice, sembra che voglia dettare le linee guida, voglia insegnare agli altri come si fa, invece spesso si risponde solo a delle domande, a delle curiosità. Siccome sono convinto di quello che penso, di quello che dico, mi aspetto anche le critiche, so che non posso mettere d'accordo tutti, neanche voglio, perché insomma pochi sono quelli che hanno messo d'accordo tutti e quelli che l'hanno fatto con maniere poco condivisibili, insomma. E quindi la cosa che più mi dà fastidio è che tanti la pensano in un modo e non lo dicono perché sono troppo seri per mettersi a discutere con chi la pensa diversamente, invece a spazio. Quello che mi è capitato nel mio lavoro, negli ultimi anni, soprattutto quando i miei compagni di squadra hanno iniziato a fare del lavoro nel dietro le quinte, come dicevo nel mio scritto, si sono trovati spiazzati perché tutti osannano e benedicono le brave persone che arrivano, nel momento in cui anche concretamente fanno le brave persone già danno fastidio. Diventa difficile. E questo è un handicap che si deve superare, si deve essere convinti di fare le cose fatte bene e soprattutto si deve essere convinti che facendo le cose fatte bene sia anche un seguito e la gente che vuole le cose fatte bene c'è. Certo. Se io mi comporto bene allo stadio smetto di andarci nel momento in cui allo stadio prevale il rischio di farsi del male, però nel momento in cui allo stadio non c'è più quel rischio, secondo me ritornano le persone che vogliono e vedono un calcio diverso, uno sport diverso da quello che purtroppo negli ultimi anni, Ti chiederei come domanda finale, e poi eventualmente questo discorso, se posso, sarebbe bello svilupparlo prossimamente, che cosa ti piacerebbe fare per il calcio? Che cosa ti sentiresti di fare per il calcio? Cioè, riusciamo, ragionando così, a svecchiarlo da un punto di vista anagrafico, e parliamo di dirigenti di ogni genere, riusciamo a provare a dargli un soffio di nuovo, partendo magari, facendoci aiutare o mettendoti davanti a tirare il gruppo, uno come te che ha vissuto di queste esperienze e le ha viste con quella particolare angolazione? Cosa vorrei fare? Sicuramente farlo ritornare quello che è. Zeman una volta diceva che il calcio avrà sempre seguito finché ci saranno i ragazzini che lo giocano negli incroci delle strade o nelle piazze o nei prati. Ridare questa dimensione al calcio che è quella che poi dà l'entusiasmo, dà la voglia di, finita la partita, ai ragazzini andare in cortile e ripetere le gesta di chi hanno visto in televisione, insomma, e non ricamare su contorni che sono poco spettacolari, insomma. Credo che ognuno può portare il suo, dai calciatori a drammatizzare la rivalità, dai media ponendo l'accento sullo spettacolo e non sulla dietrologia o le discussioni provocatorie che spesso nascono e si alimentano perché non lo so, però intanto è così. Una moviola al contrario e vedere un gesto tecnico ripetuto 100 volte invece che un rigore dubbio sicuramente potrebbe dare un'altra dimensione anche alle trasmissioni sportive, insomma, non perché sto parlando al telefono con lei o con te, penso che il calcio vissuto in una certa dimensione abbia ancora ascoltatori, abbia ancora seguito, anzi tanti che hanno la passione per il calcio magari smettono di andare allo stadio per andare a goderselo nei campi di provincia con i propri amici, dove magari la parte della discussione così dello scontro non c'è o comunque è diversa. Credo che questo sia l'obiettivo che dobbiamo porci tutti, quello di arrivare al calcio e ripeto, sono stato in Spagna dove il calcio ha la stessa, probabilmente lo stesso volume da fare, la stessa dimensione anche mediatica e si vive diversamente. Le famiglie possono decidere liberamente a Valencia se andare al mare o andare allo stadio. A Roma questo non è così automatico, insomma. Sono andato a Verona allo stadio a vedere la partita ieri, ho dovuto inviare i dati, inviare nome e cognome per avere insomma tutto. Questo ovviamente si fa per limitare i danni, per aumentare la sicurezza, però alla fine toglie quella che è la dimensione del calcio, vado a vedere una partita o no. Cioè, non c'è nessun dubbio, Damiano. Io ho come l'impressione che ci risentiremo e nemmeno tra molto tempo. Secondo me, naturalmente, sei tu che devi autorizzarmi. Poi la prossima volta. No, non c'è da autorizzare nessuno. Io. La prossima volta magari la facciamo. Io sono tifoso del calcio visto in una certa maniera, dagli ascoltatori che avete come trasmissione, mi sembra di capire che voi fantastico. La vivete. E allora accadrà molto presto. Per il momento un grazie di cuore. Da parte grazie di tutti. A tempo di sport. Tra i tanti commenti seguiti alla lunga intervista a Damiano Tommasi, c'è questo firmato Oliviero Tacchella, viene da Pavia, e questo è un corrispondente abbastanza abituale, un pavese dotto, che scrive testualmente: lo faccia assumere a Radio 24, fondiamo insieme l'associazione Damiano Presidente FIGC, io firmo per primo, faccia qualcosa, qualsiasi cosa. Chiami tutti i suoi amici giornalisti, chiami Berzotti, produttori di Valpolicella, le associazioni di difesa del formaggio di Fossa, gli alpini della Brigata Cadore, chiunque lei conosce, ma, carissimo, faccia in modo che il calcio italiano non perda un personaggio di questo spessore morale e umano. Io e tanti ascoltatori come me ci prestiamo a fare da galoppini, facciamo questa battaglia e perdiamola allegramente. Ne vale la pena, siamo stanchi di personaggi, abbiamo bisogno di persone. Persone scritto con la P maiuscola. Allora, su questa persona, Damiano Tommasi, qualche giorno fa, ed era un lunedì di metà dicembre, Gianni Mura si è speso in che modo? Beh, insomma, si è speso in un modo estremamente lusinghiero per Damiano, perché quel giorno, quella domenica, il giorno prima, Damiano era tornato a giocare a calcio nella squadra del suo paese e Gianni Mura, alla non verdissima età sua, ha preso con quel freddo e anziché fare il consueto commento al campionato per Repubblica oppure un servizio da San Siro o insomma qualcosa di routine, ha preso ed è andato nel paesino di Tommasi per raccontare il suo esordio tra i dilettanti. Ne leggo alcuni frammenti. Non sono tanti quelli che dopo la Serie A, la Nazionale, il campionato spagnolo, una breve parentesi inglese e poi la Cina se ne tornano a casa per giocare in seconda categoria a 35 anni. C'era neve sulle montagne, fa molto freddo, vicino allo zero, quando comincia la partita tra i falchi del Sant'Anna, 9 punti, bassa classifica, l'anno scorso la squadra si è salvata dagli spareggi, e il Mozzacane, 16 punti. Siamo oltre i 900 metri sui Monti Lessini. Le cave di pietra sono la risorsa principale, oltre ad un po' di turismo. Il Sant'Anna, fondato nel 1983, normalmente ha la maglia amaranto, stavolta però è giallo-blu perché il Mozzacane c'è la rossa. Ha anche due stranieri in Mozzacane, una alla destra albanese, piuttosto in gamba, che lavora in un supermercato, e un operaio brasiliano come mezza punta. Solo indigeni nel Sant'Anna, squadra considerata scomoda per la posizione tra Verona e Trento, oltre i vigneti di Valpolicella. Il campo è in frazione Fosse, spogliatoi puliti, funzionali, l'unico posto caldo. L'esordio di Tommasi ha più che raddoppiato il pubblico, di norma sui 25 paganti, biglietto unico 5 euro, spettatori stavolta 54, contati di persona, più due cavalli, uno bianco e uno pezzato marrone, e 5 vacche su un prato lì vicino. Ci sono sempre le vacche, per questo abbiamo chiamato il campo Cow Camp, dice Tommasi. Lo pronuncia quasi come No Camp, da amico di Guardiola, se lo può permettere. In squadra ci sono altri due Tommasi, suoi fratelli, Alfonso, 39 anni, maggiore, e Samuele, 24, bloccato da un'operazione ai legamenti del ginocchio, riprenderà tra un mese. Ecco, questo mi fa pensare a questa operazione ai legamenti del fratellino di Damiano, Samuele, che mi fa tornare indietro nel tempo a un grave infortunio che sembrò ad un certo punto interrompere la carriera di Tommasi, certamente in parte la compromise. Un grave infortunio che rimediò per un'entrata bestiale davvero di un giocatore gallese, se non ricordo male, in un amichevole di nessun significato, proprio di inizio stagione, su in Trentino. E Tommasi riuscì a tornare al calcio, mi pare di ricordare, soltanto più di un anno dopo. Circa un anno dopo fu quel famoso periodo di cui si è parlato prima con i 1500 euro al minimo di stipendio tabellare e insomma bene o male Tommasi riuscì a rientrare il 26 novembre del 2005, tornò a segnare il suo primo gol con la maglia della Roma in un Roma-Fiorentina 1-1, segnò dopo due minuti e poi pareggiò Toni su rigore. Sentiamo un frammento di quel giorno. Sì, difatti questo inizio, vai subito Totti per Cassano, prova a entrare in area di rigore, Cassano arriva attraversando, Damiano! Tommasi! E questa è una delle favole più belle del calcio! si torna al gol. L'uomo che nella storia recente del calcio italiano, per quello che ha dimostrato in campo e soprattutto con i suoi comportamenti, lo merita di più. Sei ragione, hai detto perfettamente Fabio, complimenti a questo giocatore che la vita ogni tanto ti toglie qualcosa ma poi ti dà, perché se sai lavorare, sudare, faticare e trovare grandi motivazioni come ha trovato questo ragazzo, vieni premiato, ha trovato il gol, una palla persa da parte della Fiorentina, Totti subito in pressione e lui è stato bravo a tagliare davanti ai Fallucci che ha perso il tempo e ha messo dentro. Credo che certo ai tifosi della Fiorentina ovviamente darà fastidio subire un gol, ma io credo che questo gol sia un segnale per tutto il calcio, non solo per Tommaso o per i tifosi della Roma. Fu un momento davvero emozionante, non soltanto per Caressa e Bergomi che lo commentarono, come avete sentito in diretta per Sky, ma per davvero l'intero calcio italiano, perché Tommaso certamente non meritava quel trattamento brutale di quel difensore, non meritava un infortunio di quella gravità, meritava però dopo il lungo calvario di tornare a vivere un momento come quello. Ricominciamo con la lettura di questo articolo, ripeto, di questo servizio che Gianni Mura è andato a fare per il ritorno in campo di Tommasi, stavolta tra i dilettanti. Oltre a essere una squadra scomoda, il Sant'Anna, lunga salita per arrivarci, il Sant'Anna non è nemmeno una squadra vantaggiosa perché tutti i compaesani giocano gratis, nemmeno un rimborso spese per la benzina quando si va in trasferta. Altrove, verso il Garda, dice un ragazzo sgranando gli occhi come parlasse dell'Eldorado, arrivano a dare 500, anche 600 euro al mese. Prima di uscire dagli spogliatoi, come usanza dal 95, i giocatori di casa intonano una canzone degli 883, gli anni. Anche questo è calcio, è competizione, è emozione, cambia solo il contorno, dice Tommasi. È il contorno la cosa più interessante, almeno per me, che più giù della Serie D, oggi interragionare, non ero ancora andato. Qui non c'è un poliziotto, un carabiniere, un vigile, un tornello, una tribuna coperta. C'è un dirigente per squadra, in borghese, che fa da guardaline. Giocatori e tifosi arrivano alla spicciolata e nella massima tranquillità. Nessuno insulta nessuno. Ad occhio una minuscola scritta, bar. Quando apre, chiedo a un tifoso, tra 5 minuti se il barista non è ubriaco. È sobrio e così riscopro piccole gioie severamente vietate negli stadi del grande calcio, tipo una tazza di vin brûlé bollente. Il presidente del Sant'Anna, Raffaello Campostrini, è anche vice sindaco. Da polisportiva, oltre al calcio ci sono basket, pallavolo e judo, in tutto 170 tesserati su 2600 abitanti, costa sui 30.000 euro l'anno. Riesce a sopravvivere in qualche modo con un contributo del comune e un rigagnolo di piccoli sponsor. Oltre i 1.000 euro lo sponsor è già grandicello. Tommasi aveva lasciato il grande calcio con un Milan-Roma a San Siro. Lo ritrova qui. Finisce 4-4. Il Sant'Anna va in altalena. 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2 con gol di testa di Tommasi che già aveva colpito una traversa. 3-3 su rigore. Giusto. 4-3 assist di Tommasi al fratello. 4-4 a un minuto dalla fine. Forse in fuorigioco, ma le proteste sono molto pacate. E comunque non c'è e non ci sarà mai nessuno viola a dar ragione a torto. In campo ho notato, scrive ancora Gianni Mura, ho notato molto fair play e anche tra il pubblico. In Veneto Santa Lucia è un anticipo di Natale, era il giorno di Santa Lucia questa partita. I bambini ricevono i regali e Tommasi ha appiccicato sul muro dello spogliatoio una spiegazione lunga. Ho scritto a Santa Lucia, le ho chiesto di riportarmi il mio vecchio giocattolo, un pallone molto economico, senza pretese di lusso. Anzi meglio se poco prezioso, perché il posto dove devo giocare non è dei più raffinati. La letterina l'avevo scritta tanto tempo fa, ma l'ho spedita solo quest'anno. Ho avuto un barlume di sentimento, un'esagerata necessità di sentirmi a casa. La lontananza della famiglia mi ha convinto che quel pallone non ha prezzo. La lettura continua ancora e mi sembra molto bella. Mi piacerebbe, prima di concluderla, alternarla con una mail che è arrivata nel frattempo, che è firmata Alberto Folgereiter. Ho ascoltato l'intervista a Tommasi, di sport non capisco nulla, ma di uomini, di giornalisti, dopo quasi 40 anni di professione, qualcosa sì. È un collega che scrive, credo di non andare fuori gioco se dico che raramente ho sentito un'intervista così ben fatta e risposte tanto efficaci. Allora la leggo per la parte che riguarda le risposte tanto efficaci e non per le domande ben fatte. Mi è tornata in mente la mamma di Francesco Moser quel giorno che lui correva una Parigi-Roubaix. Andammo a cercarla a casa, non c'era, era in chiesa a Palù di Giovo. Tutta sola diceva la corona, pregate perché Francesco vinca, le chiedemmo, no, perché non si faccia del male. Anche gli altri corridori hanno una mamma a casa e sperano che il figlio vinca una gara. Il finale di questo racconto di Gianni Mura. Campana non è una novità, cederebbe volentieri la poltrona di presidente dell'associazione calciatori. Si vedono Si vedranno nei prossimi giorni, ma Tommasi non ha fretta. Voglio capire bene in cosa consisterebbe il mio impegno. Campana ha molte esperienze ed è giusto ascoltarlo e riflettere. Ma istintivamente non mi vedo in giacca e cravatta seduto intorno a un tavolo con esponenti di un mondo che conosco poco e che istintivamente non mi va. Per ora penso a godermi la famiglia e a prendere il patentino per insegnare calcio ai bambini. Dell'estero cosa le resta? Ma penso che almeno una stagione fuori d'Italia dovrebbe essere obbligatoria per un calciatore italiano, perché da fuori si capisce meglio come giochiamo e che cosa siamo. Il top, domanda finale, risponde Damiano Tommasi, Venezia come città e Zeman come allenatore sono fuori concorso. Su tutto il resto poi si può discutere. Chiuderei qui con questa lettura dotta, colta, documentata e ripeto soprattutto coraggiosa, perché ci vuole anche un discreto fegato a essere la prima firma dello sport italiano vivente, come oggi è Gianni Mura, e spenderla, no? Spenderla vittoriosamente per il ritorno di Damiano Tommasi al pallone tra i suoi amici e i suoi fratelli dilettanti in un piccolo paesino sui monti Lessini. Mi sembrava la conclusione ideale rispetto a quell'intervista abbastanza recente, tra l'altro, quella conversazione che così tanto successo aveva riscosso tra i nostri lettori proprio tra i nostri ascoltatori proprio con Damiano Tommasi. E quindi, poiché siamo ormai in preparativi per la vigilia, insomma, per questo San Silvestro e per il debutto del 2010, i saluti più affettuosi a tutti voi e gli auguri più cari a tutti voi di un fantastico 2010 e un ringraziamento particolare a chi anche in questo giorno di San Silvestro ha collaborato, a cominciare da Rudy che è in regia, da Flavio Suardi in redazione con Franco Piantanida. Buon pomeriggio e buon anno.